avvenuta a Roma, in una zona che poi è compresa tra Zona Prati e la Bandolina, io credo che sia stata effettuata questa chiamata da un telefono cellulare. Visto che a quel numero IP corrispondeva un numero cellulare, avranno chiamato poi il provider di telefonia cellulare e gli avranno chiesto quel cellulare a quell'ora quale cella stava occupando. Avranno identificato una zona di interesse che è compresa in quell'area. Si tratta del secondo caso di una rivendicazione fatta via mail. Ci sono delle analogie? Sì. La prima volta fu mandato da un cybercaffè. Diciamo tecnicamente sulla modalità di spedizione no. Credo però che la matrice sia esattamente la stessa e probabilmente la mano è esattamente la stessa. Perché ci sta un elemento che adesso chiaramente non si può dire, che è praticamente molto, molto simile nei due casi. Nella tipologia, nel modo in cui sono stati mandati i messaggi. Ma allora, a quale titolo Michele Landi lavora sul caso di Marco Biagi? Lui non è un poliziotto, neppure un carabiniere, non è un magistrato, né dalla Procura di Bologna riceve alcun incarico per occuparsi della rivendicazione. A titolo puramente informale, dice Landi, però dimostra di conoscere il luogo da cui parte il messaggio di posta elettronica. E attenzione, rivela notizie coperte dal segreto istruttorio, in una fase assai delicata dell'inchiesta. Ma non tutti possono accedere alla mail originale di rivendicazione. Bisogna che qualcuno gli abbia fornito il messaggio, quello di posta elettronica. E allora, incrociando il filone investigativo di tipo tecnologico con attività tradizionali, si arriva ad identificare, se non l'individuo, una ristretta cerchia di sospetti. Michele Landi suggerisce così un percorso investigativo per giungere ai mandanti dell'omicidio di Marco Biagi. Ora il sistema è quello della fotografia digitale applicata a internet, lo zoom elettronico. Michele Landi scopre che la cella telefonica di Roma da cui proviene la chiamata è in una zona compresa tra Prati e Balduina, zoom. Landi restringe così il campo dell'azione e arriva alla certezza che è precisamente quella di Piazza Fiume. L'impulso captato dalla cella porta alla piazza e alla via. Zoom. In questo momento l'immagine si fa ancora più ristretta. Le celle, soprattutto in città, hanno un raggio d'azione piuttosto limitato. Landi comprende l'ubicazione del palazzo, il piano, l'ufficio e arriva fino al computer da cui è partito il messaggio di posta elettronica. Zoom. Io sono un civile, collaboro con loro, ma ribadisco, non ho un ruolo ufficiale in questa indagine. E allora, chi abita in quella zona di Roma, in quel palazzo, in quell'ufficio? Cosa c'è su quel piano? Zoom. Michele Landi non riesce a finire l'inchiesta. Elena Landi è la sorella di Michele. Gli abbiamo chiesto per concludere a che punto è l'inchiesta sulla morte di suo fratello. Non è chiusa e a tuttora noi comunque siamo sempre tagliati fuori. Cioè non riusciamo a sapere su che cosa stanno ancora lavorando e quindi stiamo aspettando la chiusura del caso dalla parte comunque della Procura di Tivoli, almeno per avere comunque, per capire su che fronte hanno lavorato. Anche perché da allora noi non abbiamo mai avuto accesso a niente, hanno dissequestrato da poco la casa e comunque non c'è più nulla del suo lavoro. Non suicidio ma omicidio, per quale motivo, qual è la sua sensazione? Ma io ho considerato due possibilità che poteva essere o il suicidio o l'assassinio, ho escluso a priori il gioco erotico, per il semplice motivo che uno che torna a casa tardi, cioè rientra quasi la mattina e il giorno dopo ha delle lezioni da dare, non si mette a fare un gioco erotico. Sul discorso comunque tra il suicidio e l'assassinio, trovo strano che comunque se una persona comunque si suicida, una procura sequestra tutti i computer, tiene chiusa a casa per un anno e mezzo, moto e macchina ancora sequestrate, la dichiarazione a poche ore dall'autopsia senza ancora risultati comunque tossicologici di Scaviola, sono tutte cose che mi pongono un interrogativo. Man mano che si va avanti, il fatto che comunque noi tuttora non sappiamo niente, il fatto che noi come famiglia non sapevamo che lui si occupasse di queste consulenze e non abbiamo accesso a niente, perché quei computer la procura, talmente che comunque non abbiamo accesso a niente, che non abbiamo avuto accesso neanche alla sua normale amministrazione per accettare l'eredità, cosa che comunque non abbiamo potuto fare proprio perché non siamo stati aiutati